Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Quanti ricordi mi assalgono appena il treno si ferma proprio davanti al cartello Firenze. Sono transitata da qui almeno 3 volte con la mia ultima fidanzata. Ormai ultima perché è rientrata nella categoria delle ex. Mi chiamo Sara, ho 40 anni, sono un'insegnante e al momento sono la persona più felice del mondo. E mentre Sara è la persona più felice del mondo, continua la campagna Vengo al Live Perché. Continua sul profilo Facebook del programma, che è Voi Siete Qui Radio 24. Continua sul profilo Twitter e anche, se avete voglia, al 349-238-6666. Se il 27 di giugno, cioè tra poco meno di un mese, giovedì 27 giugno alle 21, gratuitamente sarete presenti qui alla sede di Radio 24, via Monterosa 91, al live che chiude la stagione di Voi Siete Qui, ci raccontate perché avete intenzione di farlo. Elisa, ad esempio: vengo al live perché muoio dalla voglia di aggiornare il mio stato Facebook scrivendo io sono qui. Celeste: vengo al live perché ascoltare il live è emozionante, perché ascoltare assieme agli altri l'è ancora di più. E poi ancora Daniela: vengo al live perché vengo con 2 donne meravigliose che ho l'onore di avere come amiche, sono sicura che ci divertiremo un mondo. E poi Letizia Lusini ci ha mandato qualche storia, 2 storie una settimana fa più o meno, era l'ascoltatrice di Siena che ci raccontava la storia del babbo che era barbiere e dei cittini e degli zingari che arrivavano d'estate dalle sue parti. Letizia scrive: mi piacerebbe venire, vi saluterei, ascolterei 10 storie, vedrei Milano quasi per la prima volta, vediamo. Letizia, presto vediamo, vieni, anzi ti ringrazio perché ieri è arrivato il tuo libro, ho capito quello che mi hai scritto, me ne hai mandato 2 e uno era andato perso, è arrivato. Ivana: vengo al live perché dopo tante emozioni ci sarà un'emozione ancora più grande, insomma la parola chiave è emozione, diciamo, hashtag emozione, poi magari anche meno, insomma, magari facciamo anche qualche risata possibilmente. 349-238-6666, buongiorno a tutti, sono le 16:08, ha ricominciato a piovere quindi questo ci rincuora, in diretta da Milano dagli studi di Radio 24, via Monterosa 91, il programma è Voi Siete Qui. Ogni giorno una storia, e questo lo sapete. Ogni giorno una persona diversa. Ogni giorno il tentativo di riflettere su un pezzo della nostra vita. La storia di Sara oggi ci fa riflettere su una cosa che abbiamo definito una sorta di geografia dell'amore, geolocalizzazione dei sentimenti. Provate a pensare alle storie d'amore che avete avuto. Quelle piccole, quelle grandi, non ci servono solo storione, non ci serve solo la storiona d'amore, quella che ti porti dietro, la prima o l'ultima che sia. Qualunque piccola o grande storia d'amore, d'infanzia o recente. E aspettate col dire che ci si caria i denti oggi, perché non è così, lo dicevamo prima con Fabio Cantadori, non è così. Fabio, stai lì al mixer, non lasciare il posto a qualcun altro, perché oggi cerchiamo di raccontare le città attraverso le mappe dei vostri amori. 349-238-6666, il profilo Facebook del programma è sempre quello lì, quello di cui vi ho parlato prima, e Voi Siete Qui Radio 24. Lorenzo ad esempio scrive: Johannesburg, Sudafrica, lavorato per la costruzione dello stadio dei mondiali tra il 2008 e il 2009, storia con una ragazza mulatta durata durante la mia permanenza laggiù, è finita dopo un po' di viaggi miei e uno suo in Italia. Ecco, storie come queste, storie di uomini, di donne e soprattutto di città. Bianca scrive: Urbino, avevo conosciuto il cantante di un gruppo via lettera, ero in 5ª superiore a pochi mesi dalla maturità e lui si stava laureando, un giorno mi sono fatta prestare un bel vestito da una compagna di classe e invece che andare a scuola da Forlì ho preso treni e autobus per andare alla sua laurea, quando l'ho visto elegante nella piazzetta di Urbino che mi veniva incontro sono caduta in brodo di giuggiole. Il resto magari ve lo leggo più tardi. Liliana: Palmi in Calabria, in un locale chiamato Sing Song. Scusami Liliana, è bellissimo immaginare che a Palmi me la ricordo perché ci passa il treno, credo, per andare al sud, per andare in Sicilia, mi ricordo che è questa stazione Palmi, sai, treni della notte, tipo, mi ricordo 2 stazioni, Palmi, stazione di Palmi, e un'altra invece era Paola, stazione di Paola, perché c'è anche una cittadina abbastanza grossa che si chiama Paola. Torniamo a Liliana, scusa Liliana. Calabria: Palmi, stazione di Palmi, in un locale chiamato Sing Song. Scusate, scusa, scusa. Ritorniamo. In un locale chiamato Sing Song, incontrai un ragazzo. Ne faccio una giusta del tuo messaggio, Laliana. Incontrai un ragazzo che si innamorò perdutamente di me. Si chiamava Catch, come la scritta che aveva su una maglietta che indossava spesso. La cosa andò avanti anche dopo l'estate. Poi lo lasciai perché era troppo geloso. Abbiamo perso un'ora e mezza su questo messaggio, però ne valeva la pena per Palmi, per Catch. Non ho fatto commenti sul nome. Francesco, Firenze, innamorato di lei e di Firenze. E poi Nathalie, la nostra non è una città, ma il Monte Guglielmo. Ci siamo conosciuti proprio lì, scendendo giù dai ripidi pendii innevati. Aprite questa cartina che avete in testa, cercate di srotolarla lentamente e immaginate le città dei vostri amori, quali sono stati. Provate a fare anche un numero in più. Provate come con Google Maps. Sai che con Google Maps puoi unire, no, i pezzi per vedere gli itinerari, quanto ci mette andare da Milano a Brescia, poi da Brescia a Bologna. Provate a unire idealmente con una linea, no, come se uniste i puntini della geografia sentimentale della vostra vita. Cercate di capire che disegno viene fuori, dove siete stati e magari anche dove andrete, se avete un'idea. 349 238 6666, visto che disegniamo tutti i giorni, contribuiamo a disegnare una mappa delle storie che arrivano a questo programma e che trovate proprio graficamente sul nostro sito, alla pagina di Voi Siete Qui, radio24.it, alla nostra pagina. Oggi invece disegniamo una geografia dei sentimenti, le città dei vostri amori. 349 238 6666. Eccomi, ci siamo. Il fatidico 31 dicembre è arrivato. Dopo molti tentennamenti ho deciso che anche quest'anno lo passerò a Roma e ora mi trovo sul treno Frecciarossa diretto nella capitale. Grazie a una mega offerta all'ultima ora mi sono potuta permettere un biglietto in business class e sto facendo un viaggio veramente stupendo. Una gran pace e silenzio per tutta la carrozza. Mi accorgo che stiamo rallentando. Stiamo entrando nella stazione di Santa Maria Novella in Firenze. Quanti ricordi mi assalgono appena il treno si ferma. E lo fa proprio davanti al cartello, Firenze. Sono transitata da qui almeno 3 volte con la mia ultima fidanzata. Ultima perché adesso è rientrata nella categoria delle ex. Dopo 5 anni. Firenze è stato un po' l'inizio e un po' la fine della nostra relazione. Il primo viaggio è stato nel maggio 2007, il secondo nel giugno 2009 e l'ultima volta dicembre 2010. La prima volta che siamo transitate in questa stazione è stato per il ponte del 1° maggio nel 2007. La nostra destinazione finale era Roma, 4 giorni da sole a Roma. Il primo viaggio assieme, il primo viaggio da fidanzate ufficiali. Allora, ci siamo conosciute tramite un'amica in comune, che praticamente tutto pensava tranne che ci fidanzassimo io e questa persona, ed è finita fondamentalmente perché io non ascoltavo i bisogni dell'altra persona, di questa persona a cui ero assieme. Finalmente 4 giorni sole, noi due, senza lo stress degli orari, dei treni da prendere, dei genitori che rompevano, del nascondersi perché qualcuno poteva riconoscermi e così via. Mi ricordo l'hotel vicinissimo a Termini. La camera era letteralmente un buco. Il letto era largo quasi quanto la stanza, il bagno di casa mia era più grande di quel posto. A noi però non interessava, l'unica cosa che volevo era stare con lei. Tutto il resto non importava, tutto sembrava fantastico. Qualunque cosa, dal panino mangiato al volo da McDonald's alla microstanza. La seconda volta invece abbiamo proprio soggiornato nella città più bella del mondo. Era il ponte del 2 giugno 2009, ne abbiamo approfittato per visitare Firenze. Eravamo ancora felici. Amavo la mia compagna, anche se purtroppo l'ho scoperto dopo e a carissimo prezzo, l'amavo in modo sbagliato. In quel viaggio mi ricordo le incomprensioni tra noi due, soprattutto l'ultimo giorno. Ricordo il viaggio bruttissimo, il silenzio tra di noi, le frasi di cortesia. Ognuna rintanata nel proprio sedile che guardava senza vedere il paesaggio che scorreva fuori dal finestrino. L'ultimo viaggio è stato per il Capodanno 2010, destinazione Siena. Ho stranamente pochissimi ricordi di quel viaggio. Oramai eravamo nella monotonia più totale, nella noia più totale. Credo che oramai entrambe sapessimo che le cose stavano andando a rotoli e che la nostra relazione, così com'era, non stava portando a nulla. Allora, la nostra è stata una relazione semi a distanza, nel senso che ci vedevamo, nonostante non abitavamo proprio vicine, ci vedevamo molto spesso e cercavamo di vederci il più possibile, appunto per sopperire la distanza tra di noi. Di quel soggiorno nella splendida terra senese mi ricordo il silenzio, l'assordante silenzio tra di noi. Le poche parole, i pochi argomenti che oramai condividevamo, i pochi sorrisi, l'ansia e la noia, ma soprattutto i lunghi silenzi imbarazzanti tra noi. E la mia stupida arroganza nel volermi illudere che andasse tutto bene. E ora sono su questo treno, direzione Roma. Il treno ormai ha lasciato la stazione di Firenze. Corre spedito a oltre 245 km all'ora nella campagna toscana. Tra non molto sarò a Roma. Roma, Firenze, Siena. Queste sono le città di cui Sara parla nel suo racconto. Alcune sono uno splendido ricordo, altre meno, altre ancora non lo sono per niente. La geolocalizzazione delle storie d'amore funziona così. Se hai visitato o se sei passato da un luogo in un momento felice della tua vita sentimentale, ne avrai un buon ricordo, altrimenti no. Funziona un po' con tutte le cose della vita, che se sei in un bel periodo quella città ti rimarrà in testa come un bel posto, altrimenti no. Però con le storie d'amore tutte le sensazioni sembrano come amplificate. Le città dei nostri amori ci si fissano in testa in un modo in cui le altre città non rimangono. Ognuno di noi ha una mappa composta dalle città in cui è stato con la propria compagna o compagna, oppure dove lo raggiungeva o la raggiungeva perché lui o lei ci abitavano. Provate a pensarci adesso, no? Fatelo, aprite questa cartina davanti a voi. Se non ce l'avete, immaginatevela. L'Italia, o l'Europa, o il mondo intero. Quali sono le città dei vostri amori? Le mie sono piuttosto lontane tra loro. E così diverse da farmi chiedere se esista un legame tra le persone che le abitavano, oppure è totalmente casuale. Provo a catalogarle in ordine assolutamente sparso. Scopello, Valsesia. Il paese di montagna dove ho passato le mie vacanze estive e natalizie. E una fidanzata di montagna che sciava come un'olimpionica. New York, ore di aereo passate a guardare film e a pensare se quella fidanzata straniera fosse davvero giusta per me e io per lei. Bologna è il primo vero viaggio in treno da solo a 16 anni. È una ragazza che non ho mai nemmeno baciato. Stoccolma, il freddo e la fidanzata meno charliera che io abbia mai avuto. Gagliate, il paese a fianco al mio, da cui tornavo in scooter attraverso le strade di campagna, perché in due non si poteva andare all'epoca. Siracusa, la città bianca più bella del sud, su un'isola antica che sembra uscita da un film inglese sulla bella vita mediterranea. Ma anche Palermo e Catania, con la stessa fidanzata che si spostava ma non usciva dalla Sicilia. Trento e due estati passate lassù, a scoprire che Trento non è in montagna e in estate non è nemmeno fresca. Varese e scoprire che è una bella città. Parigi, ma solo un paio di weekend. Treviglio e scoprire che non è vicino a Bergamo. E poi, ovviamente, Milano. Perché innanzitutto è facile incontrare una persona in un posto in cui vivono tante persone. E perché diventa una città del proprio amore quando decidi di non cambiarla la città, ma di cambiare vita e condividerla lì, con un'altra persona. Sono passati 5 anni e credi, perché ha tanta sete, sono molti. Ti ho già detto il mio nome, non ti ricordi di me. Ordina ancora da bere e fammi ridere. Ti ho già detto il mio nome, non ti ricordi di me. Ordina ancora da bere e fammi ridere. Appunto, prima lo dicevo già anche durante la storia, che ognuno di noi ha delle città che ricorda perché in quella città ci ha avuto, non per forza un grande amore, però ha avuto una storia, ha avuto magari anche solo, si è scambiato anche un bacio, basta quello. Cioè, se uno era a Canossa, esiste Canossa al di fuori? Certo che esiste Canossa. E ha dato un bacio sulla guancia a una ragazzina quando aveva 10 anni. Vale, Canossa è una città dei suoi amori e fa parte della sua mappa sentimentale. 349-238-6666. È tutto perché Sara ci ha raccontato una storia che si svolge praticamente lungo un viaggio in treno e le tappe, cioè le stazioni di quel treno, le ricordano in qualche modo questa mappa e le tappe della sua vita sentimentale. Pronto Sara? Sì, pronto. Ciao Matteo. Come stai? Bene, dai, tutto bene, grazie. Adesso meglio rispetto a quando hai... Ah sì, assolutamente. È stato solo un momento così di defiance durante il viaggio. Quanto tempo è passato da questo viaggio? È praticamente Capodanno, quindi 5 mesi. Cioè pochissimo in realtà, è fresca ancora la cosa. Però quanto è passato dalla fine della storia? Dalla fine sono passati 2 anni oramai. E com'è ancora un po'... Da un po' noia ogni tanto pensarci, basta far finta di non pensarci e va bene, dai, facciamo andare bene tutto. C'è una cosa che mi fa specie, Sara, della tua storia, ed è che tu ti dai moltissimo la colpa. Cioè tu più di una volta dici ho sbagliato io, lì mi comportavo male, poi ho capito di aver avuto degli atteggiamenti sbagliati. Questa è, come dire, una presa di consapevolezza posteriori o è un modo per dire vabbè dai è finita, è colpa mia, è morta lì, andiamo avanti? È una presa di consapevolezza mia, perché dall'altra parte c'è sempre stato un guarda che stai sbagliando, guarda che così non va. E io ho sempre nascosto praticamente un po' la testa sotto la sabbia, ho fatto finta di niente, poi quando ci ho picchiato la testa, ho dato la craniata tremenda, allora alla fine ho detto, forse, aspetta, facciamo un viaggio anche dentro me stessa a vedere dove è sbagliato, e alla fine della fiera mi sono ritrovata a vedere tutti i miei errori e dire, sì, però è colpa mia fondamentalmente. Che cosa, com'è andato poi quel Capodanno a Roma? Il Capodanno, dai, è andato bene, ho dei vaghi ricordi, però è andato bene, okay. È andato bene, divertente, lungo, lunghissimo, fino a più, e un po' di alcol, dai, poco, beh, ma quello però... fa parte del Capodanno, dai, se no non è Capodanno, ce la beviamo così. È andato bene, mi sono divertita molto. Sara, c'è qualche altra città, oltre a queste di cui ci hai raccontato, che sono, vabbè, velocemente, Siena, Roma... Roma, Firenze. Ok. C'è qualche altra città sparsa per l'Italia che magari sia, non so, vicino a casa tua o invece in Sicilia o anche fuori, Se c'è una città in cui che hai visitato in maniera particolare con un amore della tua vita o dove hai vissuto una piccola storia, oltre a queste? Vissuto più che una piccola storia, ho visto una parte della mia vita di cui io sono fondamentalmente rimasta innamorata, che è Londra, perché ci ho vissuto per 3 mesi, diciamo, un po' alla fame. Però ho fatto da guida turistica a Westminster Abbey e mi è piaciuto un sacco. Diciamo che più che una persona fisica mi sono proprio innamorata della città. Scusami, come sei arrivato? Come si arriva a fare la guida turistica a Westminster? Perché c'è stato un anno che sono andata, siccome sono già andata 3-4 volte a Londra, sì. E un anno sono andata a visitare, non mi ricordo più se St. Paul forse, e c'era un'associazione dove tu davi il nome e questi ti richiamavano e tu praticamente gratuitamente facevi guida turistica nella tua lingua. Ah ok, quindi in italiano lo facevi? Io facevo in italiano, un ragazzo spagnolo lo faceva in spagnolo e così via. Loro offrivano vitto alloggio, ovviamente il vitto era tipo, vitto alloggio era ridotto al minimo, però sai quando hai 19 anni fai qualunque cosa. Alla pari praticamente, alla pari. Sì, alla pari proprio. Sara, quanti anni hai adesso? Adesso ho 40 anni. Ah, ma è la voce da ragazzina, cioè sei una ragazzina, no aspetta, sei una ragazzina, sì. Ovviamente a 40 anni, chi di noi è bella lì, chi di noi non è un ragazzo a 40 anni, giusto, soprattutto in questo paese, cioè, hai 40 anni e cosa fai nella vita? Io sono un'insegnante. E in scuole grandi, piccole, adulti? No, piccoli, piccoli, piccole. Io mi occupo dei piccoli perché non appena diventano over 10, sclero, non ce la posso fare. Sì, però c'è gente che invece sostiene che non, manco con tutto l'oro del mondo starebbe con dei bambini piccoli per quante ore al giorno? Io ho 8 ore, dalle 8 alle 10 ore, poi dipende, perché a volte ho anche il prolungamento, per cui okay. Diciamo, dipende dalle volte. 5 e mezza a volte. Una donna coraggiosa, Sara. Sara, poi ti saluto e ti lascio andare. Come va adesso? Okay. Abbiamo qualcuno? Come va a cuore? No, guarda, adesso tranquilla. Me la sto godendo tranquilla, guarda. Va bene. Sara, ti ringrazio per la storia e la chiacchierata, in bocca grazie al lupo per te, tutto. Matteo. Ciao, grazie. Grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao. Voi siete qui. Città, sostantivo femminile. Aggregato di costruzioni più o meno pianificato, sorto da un accentramento culturale, economico e amministrativo, talvolta, specie in passato, anche politico, e determinato da particolari condizioni storiche e ambientali, la collettività che vi abita. Etimo, latino civitatem, derivato di civis, cittadino. A fucking romantic, all the stars are out. Twinkling, twinkling, twinkling, and fluttering about. How fucking romantic, all the stars are out. Twinkling, twinkling, twinkling, and fluttering about. How fucking romantic. Stiamo facendo di tutto per cercare di non riempire di melassa le vostre orecchie e le casse della vostra radio, nonostante il tema della puntata di oggi, che è la mappa sentimentale, le città dei vostri amori. Non so se ci stiamo riuscendo, ma stiamo provando a parlare di una cosa girandoci intorno, come spesso proviamo a fare. Stefania, che è sempre acutissima, scrive: Google Heart, però dovrei pronunciarlo, no, Google Heart, credo. Cioè, inteso come il Google Cuore, insomma. Se mai esisterà una cartina in cui Google mette i puntini rossi sulle città dei nostri amori. Insomma, Google Heart segnala Bologna, via San Felice 38, addirittura l'indirizzo. Stefania, io l'ho detto, cioè, sono andato di corsa, l'ho letto tutto. L'adolescenza è l'inizio di tutto. Poi La Spezia, un'estate folle dove non ricordo chi fosse il più folle dei due. Milano, un grigio rapporto a distanza. Trieste, l'uomo che ora è in Germania. Vicinanza e distanza insieme. Laura invece scrive Roma Siracusa, Siracusa Roma, Roma Siracusa, Siracusa Roma, Roma Siracusa, Siracusa Roma. Prima o poi sceglieremo. Era molto più lungo il messaggio, potevo andare avanti altri 3 minuti, però Laura, perdonami, mi sono fermato ai primi 4. Marco invece, Marco fa il grosso perché scrive una città. Marco, ciccio, ascoltami, non è che stiamo dicendo che deve essere una città, puoi mandarcene anche 15 se hai voglia, se no niente. 349-238-6666. Oggi vince questo messaggio. Vince questo messaggio non solo perché è molto bello, ma perché c'è un richiamino. Cioè, io questo messaggio non l'ho letto prima, perché ho dato spazio alla telefonata con Sara, e quindi probabilmente l'autrice del messaggio ha creduto di aver sbagliato numero. Quindi vi leggo prima il messaggio, che è questo qua. Il nostro amore è nato da uno sguardo in ascensore a Fabriano, un audace invito a Londra, a teatro, per vedere Cabaret. Poi tanti treni tra Marche e Milano, e ancora valigie per i weekend estivi, alle pendici dello Stromboli o nel Parco delle Dolomiti. Poi è arrivata la volta delle Maldive, e qui si allarga la cartina. Prima della partenza, la scoperta. Resto incinta inaspettatamente, ma un figlio non si fa mai per caso. Oggi, a distanza di 2 anni, siamo in viaggio per Venezia. La bimba è dai nonni, e noi con le nostre valigie dei weekend pieni della stessa passione. Questo era il messaggio composito. Poi, scrollando i vari messaggi che arrivano al 349-238-6666, leggo quest'altro messaggio. SMS per Radio 24, puntata odierna, voi siete qui. Se ho sbagliato numero, prego cancellare SMS. Scusandomi, grazie Carmen. Ho fatto un copia e incolla, visto che era esattamente lei. Carmen, ci siamo, abbiamo letto anche il tuo messaggio. Livorno è diventata la mia città dell'anima. Ciao, da Cinisello a Lima, poi da Milano a Pangasinan, Filippine. Spero che si dica così. E poi ancora, Madrid, 4 anni con una madrilena conosciuta in Francia. Mi ha lasciato uno splendido Erasmus, la passione per le corride e la comprensione profonda del verbo amare. Chiedi a Margherita se è arrivata la liberatoria per l'ebook. Niente, qua ormai, Margherita, ormai ufficialmente parlano direttamente a te passando per gli SMS. È un delirio totale comunicativo. Ci sono un tot di buste così sulla scrivania indirizzata a Matteo Caccia, che poi apre giustamente Margherita, perché questa forse è una notizia che non abbiamo ancora dato. Se non l'abbiamo data, l'abbiamo fatto, la ridiamo. Sta per uscire il nuovo ebook di Voi Siete Qui. L'anno scorso, vi ricordate, ne abbiamo fatto uno, e quest'anno semplicemente ne facciamo un altro. Sembrava una roba così preparatoria, invece ne abbiamo fatto un altro. Abbiamo scelto tra l'altro la copertina, ringraziamo Francesco Pini, che è il grafico Francesco grafico di Radio 24. La potete trovare se avete voglia di vedere com'è la copertina, altrimenti poi vi scaricherete direttamente l'ebook sul profilo Facebook di questo programma che è Voi Siete Qui, Radio 24. Abbiamo fatto la solita finta. Cosa ne pensate tra questa e questa? E poi abbiamo effettivamente, però, diciamo, è stata più votata quella che avevamo già scelto. Non è vero, chiaramente è molto democratico questo programma, al punto che la gente scrive via SMS a me per chiedere a Margherita se è arrivata la liberatoria. Torniamo alle città dei vostri amori, Dubai. Lei di madre kazaka e padre libico. No, beh, ma questa, capito, già sei a Dubai, ci saranno 50 gradi, non puoi uscire perché cosa fai a Dubai? Stai in albergo o vai a sciare in estate nell'hangar dove c'è la discesa per gli snowboarder? Dubai, lei di madre kazaka e padre libico, 22 anni, bellissima, io 38 e molto meno. Emozioni sulla palma e al cinema a guardare film horror. Ragazzi, a Dubai, che sballo. Ho conosciuto una ragazza svedese a Orlando nell'estate del 93, durata fino al 99. Io di Torino, lei di Napoli, ora viviamo a Roma, qui è nato Federico. Le maggiori storie d'amore le ho trovate nel paese vicino al mio. Paolo è uno che ci tiene a far capire che mogli e buoi vicino al mio, l'ultima e più importante l'ho trovata a 45 anni nel mio paesello, Villa di Serio, Bergamo. Oggi, visto che parlavamo di amori e di città, ci è venuta in mente che c'è un'immagine che mette insieme il simbolo dell'amore, che sono due persone che si baciano, e alcuni simboli di una città, che poi è conosciuta come la città dell'amore, che è Parigi. Ce l'avete presente quel bacio? È il bacio di Edouard Snow, è diventato famosissimo. Probabilmente avrete avuto un poster se siete delle ragazze o se avevate una sorella in camera, nella vostra cameretta. I due tizi che si baciano, non si è mai capito, quella foto è posata, quella foto è vera, ha colto l'attimo, chi è il tizio dietro di lui? Ecco, a tutte queste risposte, a tutte queste domande c'è una risposta. La foto rappresenta una giovane coppia che si bacia su un marciapiede affollato di passanti davanti ai tavolini della terrasse di un caffè. In secondo piano, un tipico palo di lampione parigino e sullo sfondo, annebbiato e fuori fuoco, l'Hôtel de Ville. Una foto che è diventata un'icona della Parigi idealtipica, quella che ognuno di noi ha in mente anche prima di essere andato a Parigi. Quando ne fu realizzato un poster, nel 1996, vendette 410.000 esemplari. Quello che io cercavo di mostrare, disse Edouard Snow, era un mondo dove mi sarei sentito bene, dove le persone sarebbero state gentili, dove avrei trovato la tenerezza che speravo di ricevere. Le mie foto erano come una prova che questo mondo può esistere. La foto è anche diventata un'icona della spontaneità, quella degli amanti che si baciano, dimentichi di tutto e di tutti, e quella del fotografo capace di cogliere un istante in un'inquadratura, anche se almeno quest'ultima cosa in realtà è falsa. Indubbiamente la foto esprime un'intuizione creativa folgorante, ma non è il frutto di un momento di serendipità, ma è il risultato di una posa. Edouard Snow stava realizzando un servizio per la rivista americana Life e chiese l'aiuto di una studentessa di teatro, François Bornet, e del suo ragazzo Jacques Cartot. L'identità dei due era ignota allo stesso Edouard Snow e i due si separarono poco dopo. Così la veridica storia dello scatto restò sconosciuta per molti anni. Nel 1992 una coppia si presentò alla televisione francese rivendicando di essere quella rappresentata nella foto e denunciando Edouard Snow per averli fotografati senza il loro permesso. Fu allora che in un'intervista il fotografo fu costretto a fare a pezzi le illusioni dei romantici di tutto il mondo, dichiarando: «No, non avrei mai osato fare una foto senza chiedere il permesso ai due. Raramente la gente che si bacia per strada è una coppia regolare». E soltanto allora, dopo oltre 40 anni, François Bornet riemerse dall'oscurità e andò a trovare Edouard Snow, portando con sé la copia della stampa, timbrata e autografata, che il fotografo le aveva inviato pochi giorni dopo averla sviluppata. È questa, la stampa battuta nel 2005 per 125.000 euro. Vi toujours des soirées parisiennes et je voudrais vivre des soirées belles à Sienne et vivre au vent, à feu, à sang, m'ouvrir au sentiment. Commencez par voir si l'amour va son plein et si Lucien, il a perdu son chagrin. Je voudrais t'emmener au-dessus d'un volcan, brûler mes os, faire transpirer mes sentiments. Come città del proprio amore non è male questa. Adunata degli Alpini a Piacenza, 2013, una stupenda nottata, Stefano. E poi ancora, 29 anni fa il mio primo amore in Cornovaglia con Lynette. Dopo 29 anni ritrovata su Facebook. Vuole fare un meetup, cioè un incontro a Londra. Che faccio, vado? E mia moglie cosa dico? No, guarda, non farmi queste domande, non tirarmi in ballo, non ci provare. È il mio amante da 3 anni, io di Roma, lui di Milano, Firenze è la nostra città. E poi chiudiamo la parte legata alle città del cuore con quelli che di città e di luogo del cuore ne hanno uno. Sono due i messaggi che dicono: ciao, sono Michele, l'unico paese che ricorda il mio amore è Villa Bassa. Io da Brescia, lei da Bassano del Grappa, dopo 3 anni sposati e adesso dopo 15 anni sempre sposati, 2 bambini. E poi l'altro è Gloria che scrive: Bigolino di Val Dobbiadene. Siamo su coi nomi oggi, Bigolino di Val Dobbiadene, lui mi stava aspettando seduto sotto un albero. Era un giorno di maggio e un po' come oggi si preparava un forte temporale. La giornata di pioggia più bella della mia vita. Gloria. Io ringrazio anche quelli che mi scrivono: vengo al live perché è troppo coinvolgente, mi cambio in macchina dopo il lavoro e via di corsa, è la terza volta che vengo, è sempre come se fosse la prima. Marco: vengo al live perché non ho nient'altro da fare. Luca: vengo al live per trovare una fidanzata. Pierluigi: in bocca al lupo. Vi aspettiamo il 27 di giugno qui da via Monterosa 91, a breve, vi ripeto, a breve, da venerdì probabilmente, le modalità per iscriversi gratuitamente. Grazie a Fabio Cantadori, grazie a Tiziano Bonini, grazie a Margherita Ina, grazie soprattutto a Sara, perché la storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa. Ciao, io sono Rocco e vivo a Teramo. La storia di domani è la mia e parla di un ragazzo che scopre il mondo su di un palco da concerto. Questa è la mia storia e io sono qui.